Vieni qui, a sederti tra le mie ginocchia che ti racconto qualche storiella. Vediamo, potrei raccontarti la storia di una fanciulla di nome Zaffiria. La ragazza era tanto bella quanto brava. Quando la sera rimaneva in casa per studiare, ella cantava. Ed era tanto armonioso il suo canto che tutti incantava. Ora una sera, dicono che passò davanti alla sua finestra un giovine, semplice, umile nel vestire, e si fermò, colpito dal canto della fanciulla. Appoggiò le braccia senza far rumore sul davanzale della finestra e rimase tanto tempo ad ascoltarla e a vederla danzare. Venne subito buio e lui non se ne accorse. E a dire il vero, il freddo cominciò a congelare ogni cosa. Ma il ragazzo, da subito preso da sentimenti d'amore verso Zaffiria, non si accorse che stava congelando. In mente aveva deciso la sua vita e niente al mondo avrebbe potuto mutare i suoi pensieri. Purtroppo la fanciulla spense la luce e andò a chiudere la finestra. A quel gesto il giovane si riparò dietro un cespuglio e lì restò, come ad aspettare qualcosa, finché gli occhi si chiusero. La notte nevicò e l'aria poi gelò, lasciando la natura di cristallo. Il mattino seguente Zaffiria uscì di casa di buon'ora per andare a scuola, tutta ben imbottita e con i libri sotto il braccio. Subito si accorse che nel giardino vi era un albero mai visto finora. Non era imbiancato dalla neve come gli altri e intorno, a cerchio, il prato era verde. Era tanto strano il fatto che subito Zaffiria volle vederlo da vicino. Senza accorgersene, incespicò cadendo. Nella caduta spezzò un ramo dell'albero che le rimase fra le dita. Improvvisamente il ramo si animò e spuntarono fiori, di tanti colori. Zaffiria, incredula dell'accaduto, rimase tanto incantata dal ramo fiorito che se lo portò a scuola. Da quel giorno, ogni giorno, Zaffiria porta con sé sempre un ramo fiorito, anche d'inverno e nelle giornate più fredde. Bene, ti è piaciuta, vero? Ora magari vorresti sapere che cosa è successo del giovine. Allora ascolta. Era ormai trascorso un anno intero e Zaffiria, allegra come sempre, si ornava prima di andare a scuola con i fiori del suo magico alberello. Ma una mattina uscì di casa di buon'ora e andò come sempre nel suo giardino per cogliere quei bei fiorellini. Quando, sorpresa, vide che il suo albero non c'era più. Al suo posto trovò un flautino. La cartella le cadde dalle mani e quindi si chinò, piegando le ginocchia e lasciandosi andare in un pianto senza consolazione. Con le mani che le coprivano il volto bagnato di lacrime, Zaffiria improvvisamente si addormentò, ma venne subito destata da una carezza tra i capelli. Si destò e vide alto davanti a sé un bel giovane con un flauto tra le mani che le chiese perché piangesse così e cosa c'era di tanto importante che valesse quel pianto. Zaffiria raccontò in breve il motivo di tale dispiacere, ma il giovane le tese la mano e stretta nella sua quella di Zaffiria, in pochi istanti la portò su, sempre più su, nel cielo. E sorridendo felici, incominciarono a volare per le campagne, le colline colorate di fiori, a fianco a delle anatre, e stupite incominciarono a starnazzare, tra i boschi scuri e verdi e le limpide acque dei fiumi e dei laghi, a salire vertiginosamente fino a farsi avvolgere dalle nuvole e a scendere quasi in picchiata fino a toccare il campanile della chiesa. Zaffiria, che ormai rideva di gioia, incominciò a salutare tutti. I suoi compagni che andavano di fretta a scuola, le signore che si affacciavano per innaffiare i fiori sui balconi. Il giovane, a un certo punto, le chiese di cantare. Ed ecco che Zaffiria dette voce ad armoniose melodie, che si perdevano come echi lontani. Contenti e con i cuori colmi di felicità, i due ragazzi si poggiarono dolcemente nel giardino, davanti all'albero rigoglioso e colorato di fiori, tornato al suo posto. Il giovane salutò Zaffiria con un delicato bacio e scomparve dietro l'arbusto. Zaffiria rimase incantata a guardare rapita la scena quando sentì la voce della madre di Starla. «Zaffiria, che fai, dormi? Dai, che dobbiamo andare a scuola!» «Sì, mamma, vengo subito!» rispose la fanciulla, che prima di allontanarsi dette un tenero saluto al suo alberello. Bella, vero? Ne vuoi ascoltare ancora una? E allora stai a sentire. Una vecchia signora, in cerca di suo marito da oltre mezz'ora, finalmente lo trova. Che fai qua fuori sul balcone con questa tempesta di pioggia? Ma da dove verrà tutta quest'acqua? E come non lo sai, maritino mio? Li vedi? Lì in fondo ci sono tanti uomini che riempiono dei secchi d'acqua e salgono su per delle scale altissime. Quando sono giunti in cima, svuotano i loro secchi d'acqua facendola cadere giù. È così semplice. Ma vedi, che forza! E giungono fin lassù. Certo, no? Maritino mio, che credi, che ti racconto favole? No, certo, mogliettina mia, non metterei mai in dubbio le cose che dici. Straordinario, però. Oh, stai qui se vuoi, io ho altro da fare. Il marito rimase sul balcone ancora per molto tempo, fin quando la pioggia non smise, anche di bagnarlo. Il mattino seguente, il buon uomo, zitto zitto, si alzò prima dell'alba e, dato un bacio alla moglie senza svegliarla, si attrezzò a puntino ed, uscito di casa, si incamminò verso quel punto che la moglie gli aveva indicato la sera prima. Trascorsero varie ore prima di raggiungere il punto prefissato. Allora era tutto vero. In effetti il buon uomo era arrivato in una grande valle con sulla destra un ampio lago, decorato da una fitta vegetazione. E proprio da lì, altissime, stavano tante scale con ai piedi tantissimi secchi messi tutti in ordine. Non c'è nessuno. Quasi quasi mi avvicino. Sì, mi avvicino. D'altronde non sto facendo niente di male. Si mise a guardare i secchi, le scale così alte, e si domandava per quale straordinaria magia stessero così ritte in piedi a raggiungere e scomparire tra le nuvole. Si guardò un'altra volta intorno a sé. Raccolte le forze e tutto il coraggio che gli mancava, riempì dei secchi e cominciò a salire per una scala. Sali e sali, la scala non finiva mai. Ogni tanto si fermava per raccogliere il fiato e le forze, ma appena il suo sguardo si volgeva verso il basso, rabbrividiva e tornava velocemente a salire. Giunse tra le nuvole e il vento cominciò a rinforzare. La scala prese ad ondeggiare e poi sempre più. Il buon uomo vedeva la terra avvicinarsi alla sua destra e poi lo stesso alla sua sinistra. L'acqua ormai schizzava le sue gocce ovunque e l'uomo si aggrappava alla scala in tutte le maniere possibili e immaginabili, fino a quando, non riuscendo più ad opporre resistenza a tutta questa forza della natura, non volò via. Piroettò varie volte tra le nuvole con il suo secchio, scendendo lentamente verso le case. All'ultimo, riuscì a porre il secchio sul suo capo per rallentare la caduta, che terminò poco dopo sul balcone di casa sua. La moglie, per il rumore, uscì fuori e, riconosciuto subito il marito, «Che fai così, marito scemo, tutto bagnato e con il secchio in testa? Non avrai mica creduto alla storia della pioggia che ti ho inventato ieri sera?» E tutta seccata se ne tornò alle sue faccende. Sarà stato vero quello che aveva visto il marito o era tutta fantasia? Ma chissà! Ascolta quest'altra. Una bella indiana entrò a primo mattino in una pasticceria chiedendo del padrone. Che c'è, bella signora? Vorrei 800 babà e mi servono entro un'ora. Signora, non è possibile. Dove li trovo 800 babà? Provi in quella grande pasticceria che sta in mezzo alla piazza. Grazie. E la bella indiana velocemente si avviò al centro della piazza. Buongiorno, vorrei parlare con il proprietario. Eccomi, signora. Senta, mi occorrerebbero 800 babà. 800 babà? No, non è possibile. Oh, come si fa 800 babà? No, non è proprio possibile. E come faccio io? Mi servono tra un'ora. Signora mia bella, non so proprio come aiutarla. Vada da un altro. La donna uscì in fretta e provò da un altro, e poi un altro ancora e ancora un altro. Ormai stanca e sfiduciata, vide una pasticceria piccola. Ma si diceva tra sé, sì, è inutile, ormai conosco la canzone. Tentiamo per l'ultima volta. Buongiorno, esce un vecchietto arzillo. Che c'è, bella signora? Mi occorrerebbero 800 babà entro un'ora. Va bene, venga tra un'ora che glieli consegno. Non è possibile, pensava la donna, mentre la bocca le si apriva lentamente in un sorriso di contentezza. Dopo un'ora esatta, la donna si presentò dal pasticcere. Buongiorno, sono venuta per... Ah sì, i babà. Mentre parla, solleva la tenda che dà sul laboratorio ed ecco che appare davanti alla donna un enorme e gigantesco babà. Ma questo è esattamente l'equivalente di 800 babà. Glielo incarto o lo mangia subito? Il vecchio, quando la bella indiana se ne fu andata, si fece tante risate. E non ti nascondo che viene anche a me da ridere, specie se penso a chi sarà toccato mangiarsi quel babà enorme. Ma adesso ascolta questa. Tanto tempo fa c'era un bellissimo giardino, fiori in abbondanza, piante dalle forme più bizzarre e viali e vialetti che si intrecciavano in sentieri fiabeschi. Tra i fiori si sentivano due discutere animatamente. «Oh, sono stufa di stare qui insieme a tutti questi altri fiori», diceva un bellissimo fiore dai candidi e carnosi petali alla sua vicina. «Noi siamo diversi, basta guardarci. Dimmi tu cosa abbiamo in comune con quello stupido fiore giallo o con quell'altro». Quello che sta lì vicino, rosso, così dozzinale, con quei petali così disordinati. Ma tu senti il mio profumo. Si spande dolcemente per tutto il prato. E i miei petali così, così sensuali, che le api arrivano di corsa. Oh, mi sono stufata di stare qui. Sì, hai proprio ragione. Ma dove potremmo stare, dove tutti possano ammirare la nostra bellezza unica e poter dominare incontrastate questo giardino che nulla sarebbe senza noi? Non so, fammi pensare. Oh, che c'è? Ho trovato! Dimmi, vedi. Cosa? Guarda lassù. Dove sta quell'albero? Sì, ecco dove potremmo stare. Così finalmente nessuno ci confonderebbe con questi fioruncoli qualsiasi e da lì sì che domineremmo tutto il giardino. Dai, hai proprio ragione. In un attimo tutti i fiori bianchi e rosa e giallini della stessa famiglia fecero un bel balzo e saltarono sopra l'albero disponendosi qua e là. Era proprio una meraviglia. Un albero così, ornato di fiori così belli e profumati, non si era mai visto ed effettivamente incantava tutti. Non passò molto tempo che purtroppo giunse un lungo periodo di siccità e di cattivo tempo. E purtroppo l'albero si ammalò e ben presto morì, portando alla morte anche i suoi graziosi ospiti. E così nel giardino rimasero solo i fiorellini di campagna, che con la loro semplicità, sia nella forma che nei colori, seppero ornarlo e arricchirlo di profumi per molto e molto tempo ancora. Questo per ricordarti che le cose belle spesso finiscono molto presto, e che nella vita bisogna saper vivere in compagnia senza mai mettersi su livelli diversi. Bene, mi fermo qui. La prossima volta che vieni, te ne racconterò tante altre bellissime.